Fiato pronto? Fiato sospeso? Si comincia! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ciao a tutti, anche a Claudia Schiattone oggi finalmente, autrice del nostro programma. No, non abbiamo licenziato De Luca, lo riprenderemo forse. Sono Marco Ferronato in regia. Volevo mandare la sigla di Chi l'ha visto, perché Pardo è stato irreperibile per lungo tempo, invece poi l'abbiamo trovato, arriva verso le 2:30. E qui invece con me Giovanni Capuano. Ciao Gio. Ciao Carlo, quindi ciao. Diciamo alla famiglia di stare tranquilla, che Pierluigi Pardo tranquilla. È stato geolocalizzato. Dopo alle 14:30 vi faremo sentire la sua voce. Forse. Dipende anche dal telefono, non t'allargare. Saluto e ringrazio Enrico Gurro, inviato di Repubblica. Ciao Harry. Ciao, eccomi. Ciao. Croazia-Italia, esame senza Parlamento, solo con la commissione dei due punti, dei tre punti, due punti no, insomma la commissione del risultato, non ci sarà Parlamento, forse è il primo esame vero per Conte. Sì, è l'esame più serio, diciamo, un CT in realtà teoricamente è sempre sotto esame, però questa è una partita difficile perché la Croazia è oggettivamente più forte dell'Italia sul piano tecnico e a San Siro lo ha dimostrato in novembre. Senti, ma c'è chi ha detto, sparse diverse voci su Conte, addirittura io ne avevo sentita una secondo cui questa partita con la Croazia poteva essere uno spartiacque anche per il suo futuro, cioè va bene, vi saluto, siete qualificati per l'europeo, vado da un'altra parte, adesso non ci sono più i tempi. Però siamo sempre lì a danzare intorno alle sue possibili dimissioni per ragioni varie. Andrà avanti ancora per molto questa danza? Ma io credo di no, nel senso che l'hanno un po' ingabbiato e per certi versi si è auto-ingabbiato lui, perché io penso che alla fine dica la verità quando dice che quando si prende un impegno come quello di commissario tecnico, una responsabilità del genere nei confronti anche degli italiani, e evidentemente non si può non portarla a termine, e dice io sono una persona seria. Lui dice così, il presidente della federazione dice che assolutamente sarà all'europeo, e quindi al di là degli sviluppi sull'inchiesta di Cremona, in fondo lui chiede di essere giudicato prima dell'europeo, mi sembra che ci siano tutti i termini perché questo possa accadere. Sinceramente non penso che Conte non sarà sulla panchina dell'Italia all'europeo, mi sembra impossibile. Come dici tu, comunque ormai mancano anche i tempi tecnici. Sì, poi noi partiamo da un presupposto, cioè vi qualifico per l'europeo e poi vi saluto, e insomma basta dare un'occhiata alla classifica secondo me per capire che non è così semplice già questa sera pensare di essere qualificati per l'europeo, e che anzi rischiamo poi di passare un'estate così con qualche pensiero di troppo se dovesse andare male questa sera a Spalato, perché è vero che a questo europeo vanno tutti praticamente, però è anche vero che farsi superare dalla Norvegia con la prospettiva poi delle ultime quattro partite non sarebbe il miglior modo di andare in vacanza, no? No, questo è vero, però insomma come dici tu a questo europeo vanno veramente tutti, sarebbe veramente clamoroso se l'Italia non andasse all'europeo o se rischiasse di arrivarci con il terzo posto. Poi insomma Norvegia-Italia c'è già stata, e mi pare che l'Italia con tutti i suoi difetti abbia dimostrato di essere molto superiore alla Norvegia, quindi francamente il rischio non lo vedo. Certo, forse ci si qualificherà col secondo posto e non sarà una cosa molto buona, perché nella nostra storia di nazionale è successo direi mai questo. L'Italia è stata qualche volta rarissimamente eliminata, altrimenti il girone lo ha praticamente sempre vinto, quello di qualificazione, e questo è lo specchio del livello attuale del nostro calcio, che Conte non si nasconde. Io credo che dica una verità quando sottolinea che il suo lavoro è più difficile di quello dei suoi predecessori per il semplice fatto che nel frattempo il livello del calcio italiano tecnicamente è sceso, è una realtà concreta questa, purtroppo. Controtendenza rispetto ai risultati delle coppe. Enrico, ti chiedo un istante di pazienza mentre convoco tutti gli ascoltatori del mondo, 800 24 00 24. Andiamo al traffico e poi vorrei farti un paio di considerazioni tra l'azzurro e il rossonero. A dopo. Sicuramente non è bello, no? Giocare senza spettatori, anche perché il calcio è spettacolo e bisognerebbe, ecco, che gli stadi fossero sempre pieni. Giocare partite senza pubblico, ecco, diventa difficile sotto tutti i punti di vista, della concentrazione, dell'adrenalina, e penso che sia un handicap sia per noi che per la Croazia, ecco. Tutti convocati. Tutti convocati. Non sarà decisiva, qualunque risultato accadrà domani, quindi sia che si vinca, che si pareggi o che si perda. Quindi è una partita bella, tosta, contro un avversario forte, e questo ci deve dare grandi motivazioni, però ai fini della classifica non la definisco decisiva, perché qualsiasi risultato non inciderebbe in maniera importante e definitiva sul risultato finale. Questo ancora Conte. Enrico Curro invece volevo chiedere questo: si affida al lungo degente Shaarawy che si rivede dopo un sacco di tempo. Sinceramente, Enrico, a me viene difficile pensare a questo giocatore come a una futura colonna del Milan e della Nazionale. Guarda, io non penso che questo non possa succedere. Penso che lui abbia avuto dei problemi evidenti sul piano fisico, ovviamente, dico una cosa scontata, e magari anche un po' sul piano caratteriale, nel senso che non era forse pronto per prendersi responsabilità come quelle che gli sono state affidate in un Milan che è stato il peggior Milan dell'era Berlusconi, e quindi fatalmente hanno finito per attribuirgli queste responsabilità perché non avevano nessun altro a cui darle. Però il fatto stesso che si sia pensato questo, siccome non sono pazzi, vuol dire che tecnicamente questo giocatore ha qualcosa in più. È venuto il momento che lo dimostri, ma è un giocatore che tutte le sue qualità tecniche le deve dimostrare, e le può dimostrare soltanto se ha una condizione fisica che glielo permette. Il gioco di Shaarawy è un gioco basato sulla tecnica, ma anche moltissimo sulla corsa. Lui ha una corsa naturale, una capacità di essere veloce con la palla tra i piedi, è paradossalmente più veloce con la palla, c'è un test che lui aveva fatto che lo dimostrava, che non senza, ed è una dote oggettivamente rara anche nel calcio. Allora è io dico raro anche vederlo giocare, non lo so che non so cosa succederà, però le qualità per fare quantomeno un po' di differenza nel modesto livello attuale del calcio italiano lui le ha. Bisogna vedere se gli infortuni lo lasciano in pace. Io credo che caratterialmente e soprattutto tatticamente lui sia molto cresciuto. È anche vero che la scelta di Conte è anche una scelta un po' obbligata, perché praticamente le punte sono finite, in particolare quelle di un certo talento, e allora non può fare altro che affidarsi a lui, che oltretutto, avendo giocato praticamente niente anche questa stagione, è in una condizione oggettivamente più brillante, certo, di è riposato. Mi sembra che il Milan si sia un po' stufato di aspettarlo, anche quello che sta facendo Galliani sul mercato, al di là che poi ci riesca o no a prendere Martinez, Ibrahimovic, tutti e due, dia un po' il segno che davanti il Milan ha deciso di investire pesantemente, perché probabilmente non ritiene nessuno di quelli che ha all'altezza del compito, il compito di un grande Milan, intendo. Ecco, qui volevo fare il sondaggione, Ibra sì, Ibra no. Abbiamo aperto l'altro giorno con Massimo Oddo, che è stato chiaro: Ibra no per la ricostruzione del Milan. Adesso lo chiedo a Curro, che poi saluta Capuano. Enrico. Ma io invece dico Ibra sì, ma non per una ricostruzione a lungo termine. Dico che il Milan deve programmare, è evidente, e quindi è chiaro che un Ibrahimovic, giocatore di 34 anni, sconfesserebbe questa linea della programmazione, però è anche vero che il Milan ha bisogno di fare subito questa famosa differenza, perché altrimenti con giocatori normali non va da nessuna parte. Ibra è tuttora uno che per un campionato almeno la differenza la può fare. Io non so con quali termini si possa fare l'eventuale acquisto di Ibra, però secondo me non è una cosa tecnicamente sbagliata, lo è forse dal punto di vista invece della lungimiranza di un progetto che deve ripartire. Grazie Enrico, a presto. Ciao Enrico Curò. Ma ti posso dire una cosa di Ibra? Il Milan ha fatto 52 punti in questo campionato. Io credo che Ibra sia un giocatore che da solo sposta 10-15 punti. Se tu metti 10-15 punti al Milan già di quest'anno, quindi non quello con qualcos'altro oltre a Ibra, tu vedi che lo porti quasi sulla linea del terzo posto. Quindi Ibra sì tutta la vita, perché al di là dei progetti a medio lungo termine, dei cambi di società, il Milan, come tanti altri club, ad esempio l'Inter, ha il disperato bisogno di vincere subito la scommessa e rientrare in Champions. Lo so, però e Ibra da solo una questione di immagine, di risposta. No, non è una questione di immagine, è una questione di punti. Io lo adoro, cioè uno dei giocatori che, ma anche dei personaggi che più mi piacciono al mondo. Guarda, io voglio dire una bestialità: con Ibrahimovic quest'anno il Milan sarebbe arrivato terzo. Anche questo Milan un po' così. Questa è grossa, Giovanni Capuano. Ciao Federico Ferri da Sky, dai piani alti di Sky. Ciao Fede. Altissimi. ciao. Sento spesso Galliani, io al Milan non si sa mai, queste sono le ultime parole che abbia detto. Sì, tra l'altro lui di fatto oggi ha confermato che al 99,99% periodico va al Milan, perché ha detto: io voglio rispettare il contratto col Paris Saint Germain, siete voi che mettete in giro queste voci, io non so nulla del ritorno al Milan. E questo nel linguaggio di Ibra, di Raiola e di Galliani, io credo sia voglio il sondaggione anche a Federico Ferri. Allora, Pardo per il sì, Capuano per il sì, Oddo per il no. Io non, ripeto, nonostante l'amore viscerale per Ibra, sono per il no, ma da un punto di vista strategico. Poi che c'era? Currò era per il sì, Federico Ferri? No, io sono per il sì. Perché netta minoranza come al solito. Io vivo la minoranza. Per il sì, perché è un giocatore che può cambiare una squadra in una mossa, e non ce ne sono tanti. Forse non lo è più in campo internazionale, in campo europeo. Lo è ancora, secondo me, in Italia. E ti aggiungo che non mi preoccupa il fatto dell'età o delle condizioni fisiche, uno perché è integro e due perché con la mossa Pirlo la Juventus ha visto poi per 4 anni ed era un giocatore dato per finito. Tra l'altro Federico, hai ragione, poi è evidente che oggi il gap tra il Milan e la Juve è troppo accentuato, è troppo profondo, però tra il Milan e le altre, io prima ho detto questo paradosso, con Ibra quest'anno sarebbe arrivato terzo, magari non terzo, quarto, però quel gap lì Ibra poi è capace di colmarlo. Sì, anche perché il gap tra il Milan e le altre è decisamente inferiore a quello che c'è tra Milan e la Juventus. Sì, lì si tratta di una... È misurabile. Il gap tra il Milan e le altre è misurabile. Senti Fede, ma dopo questa stagione meravigliosa si comincia a sentire in giro di una mezza rivoluzione per la Juve, in parte fisiologica, e su questo non ci sono grandi dubbi, in parte magari dettata dalle leggi del mercato. E vai da Pogba, per cui la Juve ne vuole 100, poi a vederlo in finale di Champions League ci farei un ragionamento sopra, a Tevez, che io capisco, se lui mi dice voglio tornare al Boca a casa mia per finire la carriera, farei fatica a capire un'altra destinazione europea. Anch'io, io però penso che questa non sia una rivoluzione, innanzitutto credo che hai ragione ed è una rivoluzione per la Juventus, sì. Sarà una rivoluzione. Poi non credo che sia dettato dal mercato o da altro, se non dalla volontà della società. Io credo che sia una rivoluzione accompagnata, in qualche modo la società stia cercando, senza tanti traumi, di cambiare profondamente la squadra, di rinnovarla, esattamente sul modello che aveva preso Andrea Agnelli quando imparava a gestire un club da suo padre, quando c'era la triade della Juventus. Adesso lasciamo poi perdere altri discorsi, mi riferisco proprio alla gestione manageriale della squadra. Quando si vince tanto bisogna cambiare, i giocatori che in questo momento sono nella lista delle partenze, due in particolare, parlo di Pirlo e di Tevez, sono giocatori che nel caso la Juventus si perdesse comporterebbero una rivoluzione, perché sono i due giocatori sulla base dei quali la Juventus ha costruito le vittorie degli ultimi due anni almeno. E quindi io credo che accompagnarli, ripeto, senza tanti traumi e senza rivoluzioni di piazza, che a Torino non esistono peraltro. Stai parlando del famoso scivolo. Esatto, bravo. Io credo che sia proprio una strategia che trova da una parte d'accordo la volontà del giocatore, credo che la lunga Pirlo sceglierà per questa via, e dall'altra anche quella di Tevez. Da qui poi a ricostruire una squadra vincente ce ne passa, ma rimanere in alto in questo momento in Italia credo sia più facile che arrivarci per la Juventus. Sì, sullo scivolo invece uno come Pogba, vista l'età, ci sale solo per giocarci. Non so se quella è una questione di soldi e basta. Quella è una questione di soldi e basta. Se arrivano tanti quanti la Juventus ne chiede, ci potrebbero pensare, altrimenti io sono dell'idea che la Juventus tutta questa urgenza di cedere Pogba Lo penso non ce anch'io. L'abbia lo penso per un anch'io. Motivo, perché non credo ci siano offerte tali da giustificare il fatto di privarsi di un giocatore del genere. No, ma poi perché potrebbe essere davvero un investimento tecnico, cioè nel senso che adesso è un giocatore che ha margine di crescita, ma basta fare il parallelo di quanto è cresciuto nelle ultime stagioni per farti capire che potrebbe essere un investimento proprio economico quello di tenere Pogba ancora un anno. Guarda, io ti dico, faccio anche io un paradosso, come dicevamo prima per il Milan e Ibra, io lo farei capitano. Sì. Io fossi nella società investirei su di lui per un paio di stagioni da leader e poi vediamo come va. Gli darei una responsabilità in più, secondo me ha bisogno di quel passaggio. Lo renderei leader della nuova Juventus che vuole ripuntare a vincere il quinto scudetto, a provare ad arrivare di nuovo fino in Coppa, e poi si vede. Però gli darei una responsabilità in più, cioè rilancerei anche per responsabilizzarlo maggiormente. Io credo che i giocatori oggi abbiano bisogno anche di questo, in un momento in cui si parla moltissimo di vado a vincere la Champions altrove, no? Cioè, voglio giocare la Champions, no, arrivaci qua. Loro hanno dimostrato di poterlo fare. Secondo me un investimento di responsabilità e di maturità su Pogba si può fare per la prossima stagione. Sì, io non so se davvero lui ha in mano offerte di, lascia stare le offerte per la Juventus, ma offerte per lui con uno stipendio doppio rispetto a quello della Juventus, se basta una fascia di capitano eventualmente a fargli cambiare idea, a fargli venire la voglia di restare a Torino. Io credo che su Pogba, se la Juve vuole tenerselo, deve fare un investimento forte dal punto di vista tecnico, perché dal punto di vista economico non ha nessun senso, perché io credo che funzioni un po' come la borsa, e qui lo possono spiegare meglio, cioè se davvero Pogba va via 80-100 milioni è perché la Juve già capitalizza quel potenziale di crescita che tutti vedono in Pogba, e in due anni io non credo che questa valutazione possa crescere. Cioè oggi è forse sovrastimata la valutazione di 80, 90, 100 milioni per Pogba, non è un giocatore che vale quella cifra, se non perché tu immagini che possa diventare qualcosa di ancora superiore. Quindi o la Juve fa quel ragionamento oppure fa bene a venderlo subito. Sì, è così. Quello che mi lascia un po' pensare è che non c'è in questo momento secondo me un progetto tecnico per il centrocampo così avanzato da poter sostituire due pedine importanti, parte anche Pirlo come Pirlo e Pogba. Cioè, mi sembra che in questo momento non ci sia una alternativa credibile, un'alternativa del genere. Bisogna aspettare questo sì, e secondo me potrebbe veramente rilanciare tutto il mercato della Juventus e non solo la situazione Nainggolan. Grazie. Perché Fede, se cambia può cambiare anche la Juve. Grazie Federico Ferri, grazie come a voi. Sempre ci fermiamo per la borsa, poi arriva anche Pardo, arrivano gli ascoltatori, 800240024, arriva Ferrero con le sue dichiarazioni di stamattina, arriva Zenga che è stato presentato, arriva il capitolo Sampdoria, arriverà credo Guido Bagatta, insomma arriverà un sacco di gente qui, super affollamento, a dopo. Spot per noi, torniamo subito. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Che dire, arrieccici. Convocati. Tutti convocati, come convocato oggi Giovanni Capuano che è qui con me, come Pardo che stiamo aspettando. Non prende? Chiama sua mamma, chiama la signora Pardo e dille: abbiamo qualche problema a prendere il telefono con Pierluigi, ha un numero alternativo? Pardo, dove sei? Vabbè, no, ce ne facciamo una ragione, lo aspettiamo. Claudia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, prima cosa, la prima volta che intervengo, perché sono romanista, della Roma non ne parlate mai, però forse è stato meglio così. Ma non è vero, ma non è vero. Ma come non è vero? Ma non è vero, è arrivata seconda in classifica. Non ne parliamo mai male, intendeva questo. Non ne parliamo. Allora, tutto chi tifa Roma non perde mai. Non ne parliamo mai poco. Vabbè, lasciamo meglio così nell'ultima, nella seconda parte di campionato. Ma al di là di questo, no, volevo un vostro parere sull'intervista che ho sentito ben due volte di Conte. Allora, a parte il tono, non dico triste, bensì funereo, e come fai a motivare dei giocatori nello spogliatoio non riesco a immaginare come possa, ma quello che ha detto mi sembra allucinante. Cioè, dice, sarà una bella partita contro un avversario forte, ma se vinciamo, pareggiamo, perdiamo, è la stessa cosa. Non è la stessa cosa, entriamo nelle teste di serie o no? Voi che ne pensate? Che è una grandissima bugia, cambia tutta la vita vincere, appunto, pareggiare o perdere, e l'abbiamo scoperto sulla nostra pelle prima del mondiale dell'anno scorso, appunto, lasciando i punti all'Armenia. Ma questo va cacciato a calci. Beh, non esageriamo. Secondo me, certo, non è, poi non so, io non so, sono tipo romanista, però sì, non sono una grande, quindi non ti sta simpaticissimo calcio, no, più che altro non ti sta simpatico Conte, secondo me. Io dico una cosa, lui secondo me sa benissimo che questa sera è dura perché la Croazia è forte, è dura, certo, perché la nazionale, che già oggettivamente non è la miglior nazionale che noi abbiamo mai presentato, arriva con quelle 3-4 assenze importanti, e quindi io credo che questa sera sia concreto il rischio di andare in vacanza da terzi in classifica. Bravo. E questo sarebbe un problema, anche se poi a questo europeo vanno tutti, magari la Norvegia la riscavalchi, perché tra l'altro, notizie di oggi, la gara decisiva Italia-Norvegia ad ottobre sarà a Roma, allo Stadio Olimpico, e anche questa secondo me è una scelta significativa, cioè la federazione immagina già che quello sarà un appuntamento potenzialmente decisivo, e quindi si porta la nazionale a casa, dove magari ci potranno essere i 70.000, ci potrà essere una pressione di un certo tipo. Però insomma, Conte secondo me sta cercando di togliere pressioni, perché questa è la peggiore delle partite che all'Italia poteva capitare a fine stagione. Sì. Sei giorni dopo la finale di Berlino, con la Juve sconfitta e con mezza Juve che per motivi fisici ha dovuto mollare il colpo. Guardate che anche questi sono dettagli non da poco. Però Claudio ha ragione, cioè non sono le parole giuste per togliere pressione. Parole simili le avevo sentite da Benitez prima del preliminare di Champions League con Athletic Bilbao, sappiamo com'è finita. Ma torna a chiamarci, Claudia. Ti aspettiamo. Grazie, ciao. Ciao. Ciao. Stefano, chi ha fatto il contrario, tipo Garcia, cioè dicendo questa è una partita decisiva, noi vinceremo, possiamo vincere la Champions, poi l'abbiamo criticato lo stesso per il motivo contrario, no? Stefano Cremona. Buongiorno, Genta. Buongiorno. Vi va se parliamo un po' di Milano? Come no? Ibra sì, Ibra no. Ecco, bravo. Io non credo nelle minestre riscaldate. E mi preoccupa il fatto che adesso entra il thailandese, ci mette i soldi, ma quello che mi ha sempre reso fiero di essere milanista è stata sempre anche una visione oltre ai soldi che c'era dietro questa società. Io non vedo più questo. Cioè, mi proponi Ibrahimovic ancora una volta, e a te viene in mente, Sacchi, Capello, ti viene in mente Shevchenko. Siete meravigliosi. Io mi chiedo cosa dovrebbero fare gli interisti oggi. Ieri sera mi ha scritto non leggerlo, ha detto 176 nomi accostati all'Inter dall'inizio del mercato a oggi. E poi insomma leggi Mancini e capisci quali sono le difficoltà. Cioè, io credo che finalmente il Milan abbia una visione e abbia anche dei soldi da spendere. Guardate che il caso di Ibrahimovic non è come le altre minestre riscaldate di cui giustamente state parlando. È una questione filosofica, però, Giovanni, sembra quella, e Stefano non ha tutti i torti. Cioè, io questi li ho già visti, cioè, ho già visto tornare della gente che ho voluto bene. Ho visto arrivare Ronaldo che era sull'altra sponda facendo incazzare l'Inter. Ma tu non puoi paragonare Ibrahimovic oggi, anche 34enne, a Ronaldo a fine carriera. No, ma non sto paragonando niente. Ibrahimovic è un giocatore che in Italia sposterebbe ancora gli equilibri. Io guarda, è una parola enorme che non ci sta, però sto facendo solo della filosofia. Cioè, ha ragione Stefano quando dice abbiamo bisogno di visioni differenti, e in questo lo capisco. E detto questo, se c'è uno che è tifoso di Ibra a sangue sono io, vorrei rivederlo in Italia, potrei perfino andare allo stadio a vedere delle partite. Pensa un po' cosa ti dico quando tu non mi fai venire qui come sempre. Ce li hai qui a un chilometro da settembre a San Siro. Vedi Ibra. Vincenzo Caserta, pronto? Dica. buongiorno, è la prima volta che intervengo. Grande. Mi aggancio al discorso Ibra adatto al campionato italiano, perché ormai il campionato italiano è un campionato in saldi di fine stagione rispetto a quelli che sono ormai le punte europee di eccellenza. Allora, faccio un'analisi. Questa è tutta una montatura che vogliamo sempre noi italiani darci le mazzate addosso anche nel calcio. Mi spiegate, io sono napoletano, tifosissimo del Napoli, ho assistito alla critica mazzarriana ai tempi del Napoli, siamo andati due volte in Coppa dei Campioni, è arrivato il mago Benitez, anche lui talebano del suo modulo, se permettete, ha buttato 20 punti all'aria, Higuain, top player, ha mangiato gol a caterva. Sì, sì. Poi dicevano portieri facevano i miracoli. Signori, no, se mai Mirante qualcosa ha fatto. Ne mangiava tantissimo. Se mai Mirante, magari Mirante qualche cosa ha fatto in più contro Higuain. Storia qui è stata smentita, ma era bella, eh. No, era bella, praticamente c'era questa storia per cui Higuain aveva scritto un messaggino alla fidanzata di Mirante chiedendo forse di uscire. Forse più di uno. Forse più di uno, Mirante, però Mirante ha smentito tutto. Ha detto Mirante. Sono gossip ed eresie. Però su Mazzarri ha ragione. Tanto l'ha mollata. Guarda, siamo anche qui sulla discussione. Il paradosso è che tutti quelli che hanno seguito Mazzarri hanno fatto non meglio, se non peggio. Benitez a Napoli e se vogliamo anche Mancini all'Inter. Sì, sì. Quindi evidentemente Mazzarri così scarso non è. No, ma no. Ciao Pardo. Luigi. Sì, sì, mi sto ascoltando. Buongiorno, come va? Bene, ho problemi di telefono. Stavamo però... chiamando tua mamma. Chiamiamo la signora Fausta perché Pierluigi non riusciamo a prenderlo e quindi siamo vagamente preoccupati. No, stavamo già componendo il numero della signora Fausta. Sono vicino Diamante. Sì. Respirerò l'odore dei granai, anche se non è ispirata, lo sappiamo, alla città molto bella della Calabria, ma soltanto insomma alla nonna di canzone Zucchero, di Zucchero, sì. De Gregori. Va bene, di che parliamo? Di quello che ti pare, cioè abbiamo fatto ampie discussioni su Ibra nazionale. Sibra, no, nazionale, Conte che dice ma tanto non conta niente, possiamo vincere, perdere, pareggiare davanti allo stadio vuoto che tanto non ci cambia la vita. Io ho detto che questa l'avevamo già sentita con Benitez e che quindi non vale. Sì, senti, sì, facciamo così, dato che c'è il traffico, sentiamo il traffico, poi sai di cosa parliamo? Sì. La Sampdoria. Vabbè, se ricorda quella c'è il traffico. Battaglia, andiamo da Nando San Vito. Nando. Tutti convocati. Tutti convocati. Visto che lei è un uomo di cinema, questa avventura nella Sampdoria, che tipo di film sarà? Un colossal? Che tipo di film immagino? Immagino un menù. Chiaro che oggi è un giorno importante anche per la società, perché il presidente Ferrero oggi è un anno che ha assunto le redini di questa società e credo che in quest'anno siano state fatte cose fantastiche grazie alla collaborazione tra società e staff tecnico. Sono favorevole alla continuità delle persone, dicevo prima, come calciatori, perché se uno fa un progetto e il progetto si segue, io credo che l'esonero degli allenatori fa male alle saccocce dei residenti e fa divertire solo i tifosi. Punto. Dato che io voglio far male alla saccoccia mia e divertire il tifoso, sosterrò Zenga fino alla morte. Se era la pippa come Moragno e porta fortuna, sarà un grande allenatore della Sampdoria, perché tutti voi dite delle cose che non si possono sentire. Ah, perché ha preso Zenga, sono 5 anni che sta qui, che vuol dire? Che è giapponese. E l'altro che corrono, che è ginocchio. Che vuol dire? È un grande allenatore, un motivatore, è l'unico che mi ha convinto, c'ha molta voglia di essere in Sampdoria, e poi come direbbe l'amichetto mio, ma rischio io. Io sono qua per ovviamente per migliorare le cose e per dare tutto me stesso, perché ripeto, per me è un punto di arrivo e sono molto contento ed emozionato di essere qua oggi. Cantiamo tanti auguri a te, tanti auguri a te. Tanti auguri, Mr. President. Tanti auguri. Guido Bagatta, no. Buongiorno. Oh, Bagattone. Eccoci. Come va la vita bassa, Bagatta? Libro, lo diciamo, a quei pochi non l'hanno letto. Sono a pranzo con Cruciani. Incredibile. Poteva andare signor, meglio. Signor Cruciani, io sono in Calabria davanti al mare, sto nettamente meglio, stravinco. Poi glielo dico. Ma poi Cruciani non mangia nulla, Guido. No, Cruciani ha mangiato di tutto. Mangiato di tutto? Sì, sì, ma sì. È così, perché... Chi è che offre? Offri tu sicuramente. Scherzo. Cruciani è un uomo che però mangia poco, è vero. Cruciani corre, cioè noi mangiamo, lui corre intorno, esatto. Però è di grande convivialità. Sei ottimista su questo ritorno, insomma, dall'allenatore di Zenga? L'uomo ragno al ritorno, mamma santissima del cinema come te, no, l'uomo ragno in ritorno. No, beh, l'uomo ragno si è portato anche suo fratello, lo vedo ben in carne, buon Walter. Allora, se come dice Roma, si è magnato suo fratello. E, allora, dividiamo le cose in due. Personaggio Walter Zenga, super positivo. Persona che io ho sempre adorato, un bravo ragazzo, vittima spesso delle donne, delle circostanze. Da allenatore molti punti alti, forse più anche bassi, ha fatto l'ottovolante, non conta aver allenato in Romania, in America, conta quello che ha fatto nelle squadre, non perché quelle non sono vere, ma nelle squadre vere, insomma, tra Palermo e Catania ha fatto molto bene ma anche molto male, quindi è un grosso punto di domanda, potrebbe essere la soluzione delle cose. Devo dire la verità che sentendo Walter che dice sono qui per migliorare le cose, meglio di così non ci poteva andare quest'anno, perché se con una squadra che doveva quasi retrocedere abbiamo rischiato addirittura di andare, non dico in Champions, ma insomma di finire attaccato alle grandi, e spero per lui che migliorare le cose dura, però comunque. Adesso io vorrei un confronto serratissimo tra Bagatta e Pardo sulla questione Cassano. Cassano torna, non torna, lo vorresti, non lo vorresti, Pierluigi? No, posso dire una cosa, adesso qui faccio, sì, tipo faccio l'interpretazione autentica, nel senso, vai, che ho il mandato di dire queste cose, nel senso che credo che lui, che ama la Sampdoria tantissimo, però si sia anche un po' rotto le scatole di questa discussione, nel senso che penso e credo, sono certo che ci siano stati dei colloqui per tornare a gennaio, insomma, poi lui si sente messo in mezzo ogni volta e quindi poi alla fine l'ultima volta che abbiamo parlato dell'argomento mi ha detto io amo la Sampdoria, però insomma se non è aria non è aria, cioè non è che sto, devo dire, ma te l'ha detto in onda questo, te l'ha detto in onda? No, me l'ha detto però me l'ha detto anche in onda, te l'ha detto anche in onda, insomma, quindi l'amore è indiscutibile, l'amore, il rapporto con Genova, insomma non è cambiato una virgola, però non... Io dico questo, la Sampdoria ha fatto le sue fortune quest'anno a differenza di altri che hanno una maglia rossa con le righe nere, non con i ritorni ma con i giovani, con una squadra molto interessante in tutto e per tutto. I cavalli di ritorno, e il Milan lo insegna, infatti non so cosa tentano di prendere Ibrahimovic, cioè, tu guardi la storia del Milan da Kakà, Shevchenko, tutti quelli che sono tornati hanno fallito. Il discorso Cassano è stato un bel periodo, fine, punto. Tra l'altro Cassano, anche se è ancora non pensionabile come età, secondo me anche a fine carriera, e stiamo parlando di uno che come qualità, secondo me, adesso molti cadono dalla sedia, era ed è come Messi, come qualità di gioco, poi ovviamente gli manca qualcosa. Bravo Guido, bravo, d'altro. Ci è piaciuto, bravo Guido, bravo. In realtà lui direbbe no, non diciamo Messi è Dio, io sono una figlia proprio a me. Direbbe questo, però insomma no, bisogna non c'entra niente ragionato. Anche il ritorno di Pazzini, ragazzi. Anche il ritorno di Pazzini, no? Ma no. Allora, Giampaolo, tra l'altro, è anche lì. Stiamo parlando di un grandissimo giocatore. Con Cassano, loro ci hanno portati in Champions. Siamo andati a un gol. A un minuto. Il grosso errore di un allenatore per far prendere gli applausi a Cassano, ci siamo giocati i gironi della Champions. Comunque è tutto passato, adesso non vorrei sono d'accordo con te Guido, io sono d'accordo, tra l'altro noi abbiamo fatto un campionato della Madonna con dei giocatori che nella Sampdoria erano diciamo alle prime, alle prime o seconde esperienze. Romagnoli, che comunque non è nostro, ha fatto un campionato pazzesco in difesa, ma c'ha 20, quanti anni c'ha? 21, 20, uh-huh. quanti anni. E che senso ha? Abbiamo dato via Gastaldello, mi è dispiaciuto, però se adesso mi dicessero torna Gastaldello, ma no, ma perché? Giriamo pagina, cambiamo il film. Fino a tanto il campionato non lo vincerai mai, mai. Sì, sì, quindi sì. Il campionato, lo sport, il calcio, lo sport europeo, non è come in America dove una piccola città come Green Bay può vincere il football americano. Campionato successo negli anni Ottanta, che la Sampdoria, il Verona, il Cagliari negli anni 70, il Bologna, non la li vediamo più. Non li vediamo più. Ma mai più. Quindi è inutile stare lì. Tanto tu hai un ruolo che se ti va benissimo vai in Europa League, se ti va male lotti per retrocedere, per non retrocedere. Quindi devi fare una squadra per quelle fasce lì. E per far divertire la gente devi prendere i giovani, quelli che hanno voglia di correre. Noi abbiamo avuto il Eder quando certo, eravamo in Serie B. Certo, Kaká certo. che è un giocatore meraviglioso, ma teniamo Kaká, perché dobbiamo vendere Kaká? Svendere. Svendere per prendere Guido, ho un secondo per un nome. Chi vince il titolo NBA? Allora, premetto che non sono risultato la prima di stanotte perché me lo sono registrata. Quindi ah, vabbè, lascia stare, non ti dico niente. Allora, lasciamo stare, te lo dico un'altra volta. Non sapendolo, lo vincono sempre i Warriors, nonostante quell'altro sia probabilmente con Michael Jordan e Magic Johnson il più grande mai apparso sulla terra. Sto parlando di LeBron James, certo. Per quanto riguarda il basket. Grazie Guido, alla prossima. Un abbraccio, ragazzi. Ciao. Grazie a voi. Giovanni, stiamo qui. Sì, però potevamo dirgli il risultato. No, dai, siamo stati degli stronzi terrificanti. Pier, c'è ancora? Sentiamo dopo. Ha vinto gol, ha vinto gol. Dopo. Metti che ci ascolta. Tutti convocati. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Radio 24 e il Sole 24 Ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione. Si ricomincia! Convocati. Allora, rifacciamo i conti. Giovanni Capuano è qui con me. Pierluigi Pardo è al telefono dalla Calabria. Eccolo. Presente. Stai. Bene. Diga. Stefano è a Venezia e adesso parla. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Vorrei sottolineare che anch'io come agente sono un tifoso di Ibrahimovic e lo vorrei vedere alla Juventus. Lo so che è un sogno, però beh, magari sarebbe una, più che altro sarebbe un'altra minestra riscaldata, visto che lo so, però, mi state raccontando che Ibra è una minestra riscaldata, no? Ma dai, personalmente parlando non credo possa andare al Milan perché è troppo attaccato ai soldi, sì. E a 33 anni, 34 ottobre, lui non vuole investire un altro anno per poi forse il prossimo andare in Champions League, quindi se vuole tornare in Italia alternative oltre la Juve e la Roma non ce ne sono, ma non credo che comunque verrà. Poi un'altra cosa, ho sentito che si vociferava di Higuain alla Juve, ieri, la notizia di ieri, non so se è vera, volevo sapere se sapete qualcosa. E tutto qua, né più né meno. Vabbè, è una delle mille voci, quella di Guaina alla Juve, però vediamo cosa fa Tevez, dai. Ecco. Pardo, volevi dire? Ma no, dai. Io vorrei Ibra in Italia. Vorrei, scegliete voi la squadra, al Palermo, al Napoli, a Fiorentina, al Torino, quello Milan, anch'io. La Lazio. Ma la squadra voi. È solo il Milan, Pierre, è solo no, qualcuno Milan, che gli dà l'emozione, sì. La scossa di essere leader emozionale di qualcosa. Guarda, perché altrimenti se Ibra viene in Italia, se Ibra viene in Italia è leader emozionale di qualsiasi squadra, forse l'unica è la Juve dove ci sono altri leader, ma questo lo dico perché credo che la Juve sia talmente avanti che se viene Ibra è un completamento, ma tutte le altre 19 squadre della Serie A, se arriva Ibra è il leader emozionale, tecnico, emotivo, che poi più o meno è come emozionale, filosofico, fisico, cioè scegliete voi. Ibra è, cioè il discorso sui cavalli di ritorno può essere giusto in linea di massima, ma Ibra è ancora integro, è ancora un giocatore, è ancora uno che in Italia secondo me fa la differenza. Comunque il tema non c'è, perché l'unica squadra che lo può riprendere in questo momento e a determinate condizioni è il Milan, per mille motivi, un po' di rapporti e poi perché risulta che il Milan sia l'unica che ha venduto il 48% delle appunto. Azioni, gli altri no, e quindi restiamo fermi sempre al giro prima, quindi l'Inter ha i vincoli di mercato e ci sono altri problemi e tutte le altre squadre sono sottodimensionate, forse la Roma, ma non mi pare che sia nei progetti, quindi... Andiamo veloce con gli ascoltatori che poi raccolgo un appello, ma avevo già deciso. Anche il Napoli potrebbe. Anche il Napoli potrebbe. Astrattamente anche il Napoli potrebbe. Soprattutto se va via Higuain. Appunto. Che va in vacanza con Mirante. No dai, signor Mirante. Io ho sentito prima. Vogliamo dirlo che, vogliamo dirlo che ha smentito, eh? Ha smentito, ma smentiscono tutti, non costano niente le smentite, ragazzi, sono gratis. Poi voglio parlare di Reggio Emilia in finale di basket, voglio fare un mini processo a Milano che l'altro giorno ha confezionato uno dei più grandi fallimenti degli ultimi 20 anni della storia sportiva, magari vado oltre ed esagero, ma voglio forzare questo tema. Intanto, velocemente, Luca da Busto, poi Amedeo da Udine, poi Massimo Provincia di Trapani. Buongiorno Luca. Buongiorno gente, grazie della convocazione. No, io mi volevo riallacciare al 48% di vendita del Milan a questi signori che hanno messo dentro un sacco di capitali. Il dubbio che mi viene è, ma non è che sia un modo per far rientrare dei capitali esterni di Berlusconi? Chiami la finanza. Che ne so io. No, lui chiama la finanza, fa la segnalazione e magari qualcuno scopre che è vero, però... Mi sembra che stiamo facendo fanta economia, Pierre. Cioè, non è che dobbiamo essere sempre. Cioè, io capisco che questo è un paese dove la quantità di scandali che ci sono stati e che ci sono, come le cronache dei giornali dicono in questi giorni, ci portano a pensare male di tutto. Però non è che se succede una cosa per forza ci deve essere dietro, no, chissà quale. No, poi adesso siamo siamo magari sarà pure così, però ma sì, appunto... però siamo anche oltre l'avviso di garanzia, siamo anche oltre le perquisizioni di Lotito, siamo oltre, cioè alle pure congetture. Però vale sempre il discorso, ma la finanza qual è? 117. No, la cosa curiosa di questo fatto è che siccome per tante settimane è stato raccontato ai tifosi del Milan che Mr. B e i suoi soci erano dei cialtroni che non avevano dato garanzie, che poi settimana scorsa più o meno a quest'ora tutti hanno dovuto fare una sorta di inversione a U e scoprire che in realtà questo i soldi li aveva, l'accordo con Berlusconi lo stava firmando, lo stava concretizzando. Poi vedremo, però qualche effetto c'è. Cioè, se Galliani ha ricominciato a girare, come scrive oggi un bel articolo Tutto Sport, con il jet privato per fare il giro d'Europa a caccia dei giocatori, e non va più a suonare il campanello in treno, qualcosa sarà cambiato, quindi, certo, oppure sono impazziti tutti, stanno fingendo tutti. A me Galliani che suonava il campanello di destra questa piaceva, cosa mi fa impazzire, ragazzi, io capisco piaceva. Qualche collega che si era innamorato delle altre piste, perché c'è anche stato questo in questi mesi nel racconto di questa trattativa, però qui ci sono dei fatti che sono oggettivamente al momento incontrovertibili. Amedeo, buongiorno. Buongiorno, signor Genta, tanti saluti ai suoi radioascoltatori e a tutti i giornalisti che sono sia in sede che fuori sede. Allora, io volevo solo dire una cosa. Secondo me, è un parere mio, Mr. B quando ha preso il 48% del Milan ha imposto, secondo me, di avere dei campioni dentro perché vuole vincere qualcosa, perché non si capisce questa situazione. Cioè, Ibra è grande, tutto quello che volete, però alla fine sapete quanto costa Ibra ogni anno? 14 milioni. Significa se ti fa lo sconto 14 milioni. Adesso ci sarebbero questi soldi, cioè volendo se prendiamo dei giocatori che non siano alla grande altezza di Ibra, ma che formino una squadra, un collettivo, è molto ben diverso, perché Ibra è un giocatore e tutta la squadra deve giocare per lui se vuole fare qualcosa, altrimenti non fa niente da solo. E questo è inutile che lo dicono i giornalisti, no, Ibra fa squadra, non è vero. Se non hai quello che ti dà la palla, tu non vai avanti, no, fa un non sacco c'è di niente cose da fare. Sì, però, invece è uno dei pochi che fa tanto da solo, Ibra. Ecco, questo volevo dire, che poi per carità, nessun uomo è un'isola, come si diceva una volta, no, nessun giocatore vince le partite da solo, però per quella che è la specificità del campionato italiano, per il fatto, per la forza fisica che ha Ibrahimovic, che aveva quantomeno, perché il dubbio ci può anche essere sul fatto di trovare un Ibra appassito rispetto a qualche stagione fa, questo ci può stare, ma l'Ibra che ci ricordiamo noi era uno che in Italia faceva la differenza da solo, sì, o quasi da solo, sì, è uno che non a caso ha vinto il campionato tutti gli anni tranne uno, sì, sì, e quindi voglio dire, nelle 38 partite, così come lui ha una idiosincrasia assoluta per la Champions League, io credo che lui in carriera abbia vinto negli ultimi 13 anni 12 scudetti, sì, perdendone uno dove? Con il Milan. con il Milan, l'anno famoso in cui sono stati tra gli infortuni e nel primo anno di Conte eccezionale della Juve, insomma, voglio dire, la percentuale, io penso che se mi metto nei panni di chi deve inseguire, di chi deve rapidamente provare a ridurre il gap con la Juve, Ibra sia la scorciatoia. Poi è evidente che da solo non basta, però secondo me è la scorciatoia. Non c'è un altro giocatore a parte, ovviamente, cioè di quelli che si possono prendere, perché Cristiano Ronaldo e Messi, lasciamo perdere. Il discorso è contrario di quello che faceva l'ascoltatore: se tu non hai la squadra, prenditi Ibra, che ti risolve un po' di problemi. Appunto. Massimo, appunto. Provincia di Chiavani, buongiorno Massimo. Buongiorno, grazie della convocazione. Grazie a lei. Io volevo parlare di Mattia Destro. È un giocatore che nessuno ne parla, secondo me invece è un grande. Non vedo il motivo di andare a prendere Ibrahimovic quando Mattia Destro, che Inzaghi non ha utilizzato quasi per niente, tranne la fine del campionato, dove ha risolto le partite. Sì. E quindi secondo me, piuttosto che andare a cercare in giro, ce l'abbiamo in casa. È della Roma, è della Roma e costa molto. Cioè, questo è. Anche a me piace molto Destro. Sono un fan di Destro, ma non ha fatto una buona stagione. Ed è inutile girarci intorno. Molto si deve allo scarso feeling con Garcia. Poi c'è stato lo scarso feeling anche con Inzaghi, infatti. Mi viene anche da dire che Inzaghi lo scarso feeling ce l'ha avuto con tutti gli attaccanti, perché a parte Menes, che è rifiorito. Tutte le prime punte, ed è stato uno dei paradossi della stagione, considerata la forza Inzaghi, che era un attaccante straordinario, però poi da allenatore tutti gli attaccanti veri che ha avuto a disposizione hanno fatto tanta fatica, quindi questo è un paradosso. Io Destro assolutamente, fossi da Roma, non lo butterei via, proverei a monetizzare bene, se no me lo terrei, perché secondo me è un giocatore che avrebbe fatto molto comodo alla Roma. Sì, anche alla nazionale. Io leggo quelli che giocano in nazionale, non ne trovo lì davanti uno meglio di Destro. Ha dei limiti evidenti di personalità che deve migliorare. Sì. Qualcosa si era rotto nel rapporto con Garcia. Sicuramente, detto questo, per come è stata la stagione della Roma nella seconda parte, con così tanti pareggi, con così tante partite buttate via, con la difficoltà di sbloccarle contro squadre di basso livello, diciamo medio piccole, per me Destro era l'ideale. Sì, certo. Secondo me la Roma con Destro non arrivava a doversi giocare tutto nel derby, che poi insomma per sua fortuna ha vinto, ma la risolveva molto prima. Senti Pier, ti lascio andare a fare il bagno? Ma come vuoi, io sono qua, sono un voglio bene. No, anche perché io devo raccogliere questa preghiera di Luigi da Reggio Emilia, basket. Non raccolgo invece questa, ma andate a documentarvi ignoranti, Ibra non ha mai vinto nulla in Europa. E vabbè, non lo sapevamo, questo ci mancava, siamo ignoranti. Allora, ieri si è completato qua la finale, ci va Reggio Emilia e giocherà con Sassari, cioè qualcosa di mai visto. Niente, pallone recuperato, partita che finisce e allora Reggio Emilia va in finale, 70-63. Beh, adesso ce la giochiamo alla grande, finché ci siamo. Siamo andati contro qualsiasi cosa. Ringrazio il mio amico Meo Sacchetti, mi ha invitato in finale e io ho accolto il suo bellissimo invito. Dunque Sassari Venezia, so che Pardo voleva andare al forum a vedere Sassari Milano, Milano-Sassari. Io sì, non sono andato l'altra sera, però l'ho vista e confermo che il basket per me, lo dico faccio un'eresia dal punto di vista del gioco, giocavo da bambino, da ragazzo a basket, dal punto di vista del gioco, secondo me, per il mio gusto personale, è lo sport più bello che esiste. Dal punto di vista del meccanismo del gioco. Poi la cosa meravigliosa del calcio, che non sempre il basket ha, è questa capacità incredibile di muovere popoli, coscienze, religioni, filosofie, la grandezza del campo di calcio, l'emozione che ti dà il prato, tutto quello che è il contorno. Sì. Però il basket, quando arriva a quei livelli lì, secondo me ha un concentrato di adrenalina che pochissime partite di calcio hanno. La prima che hai detto, guarda, fossi capace la metterei come suonare al cellulare, che sono ignorante in una maniera. Ha ragione, la scaricare, cioè Claudia che te la scarica, ci mette un secondo. Ma è un gioco, incredibile. Luca Chiabotti. Ciao a tutti. Ciao, stiamo cazzeggiando, Stiamo amabilmente cazzeggiando intorno ad una finale tra due squadre meravigliose, Sassari e Reggio Emilia, impronosticabili. Ma è come se in Spagna si giocassero lo scudetto Atletico Bilbao e Celta Vigo. Cioè, voglio dire, butto i due nomi a caso. Mm-hmm. No. Beh, Sì e no, nel senso che ovviamente siamo stati tutti un po', abbiamo sempre detto vince Milano, vince Milano, vince Milano, e adesso siamo un po' tutti così, rimasti sorpresi, però insomma diciamo una ha vinto già due trofei quest'anno sui due che si sono disputati, l'altra è arrivata terza nonostante una serie di grandi infortuni, e quando ha recuperato il suo totem lituano lì sotto, la Drinovic ha battuto ed è diventata una squadra veramente importante, per cui però impronosticabile. Una volta tanto uno si siede davanti alla televisione o a un campo e dice ma chissà chi vincerà, ed è una cosa che è vero che l'anno scorso poi tutti pronosticavano lo stesso, una finale vinta da Milano e ci è arrivata a gara 7 sì. In modo rocambolesco, però diciamo un pronostico così aperto non me lo ricordo veramente. No, questo no. Però posso dire che questa Milano del basket è stato uno dei più colossali fallimenti degli ultimi 20 anni. Insomma, non è andata bene, mettiamola così. Io dico sempre in questi momenti, per mantenere un attimo di lucidità nelle analisi, che Milano che vince lo scudetto e che deve aprire la dinastia come ha fatto l'anno scorso, lo aveva perso a 8 decimi dalla fine di gara 6, aveva perso lo scudetto ed era rimasto a Siena, e che adesso a un secondo dalla fine di gara 7 era in finale. Forse qui adesso parleremo di una finale segnata dallo strapotere civistico. Docet Milano e invece Sassari ha fatto delle cose straordinarie. Anche se Meo Sacchetti ieri ricordava 11 partite Sassari Milano quest'anno, 6 le ha vinte Sassari e ha vinto quelle che contavano, soprattutto Coppa Italia, Supercoppa. E questa gara 7, quindi forse così più forte Milano non era, no, anche nell'arco di una stagione, anche considerando tutto. Ma secondo me, vedi, poi alla fine in questo tu rivedi un po' del meccanismo che c'è anche nel calcio, no? La differenza fra il campionato, quindi fra la ripetizione di partite tutte uguali, 38 nel caso della Serie A, e la Coppa, che in qualche modo assomiglia al playoff, che sono delle circostanze che succedono di rado, dove il pallone scotta nettamente di più, dove si riparte da zero, e come è successo e come succederà adesso fra Sassari e Reggio Emilia, e dove ci sono altri aspetti. Quindi in qualche modo è una riproduzione di una dinamica che conosciamo già. Ci sono delle situazioni, l'altro giorno Zidane prima della finale di Champions League diceva, se vuoi, con un po' di così, un po' di effetto teatrale, queste sono le partite per i grandi giocatori, e insomma il playoff sono le partite per i grandi giocatori, e Sassari ha dimostrato dal punto di vista della personalità di non essere inferiore. Poi ha ragionissimo Luca, cioè è chiaro che Milano è stata un secondo da vincere questa partita, e in fondo aveva rimontato, non però neanche un gran merito. Non si doveva, secondo me, mettere in questo tipo di condizione. Esatto. In qualche modo mi ricordo quello che ci diceva Delio Rossi ieri sull'ansia della prestazione che ha avuto il Bologna. Poi il Bologna è stato salvato dalla traversa, e lo stesso Delio Rossi riconosce che il Pescara ha giocato meglio, mentre Milano è stata raggiunta da quel canestro un secondo alla fine, è andata al supplementare e poi la buttata via. Quindi, però insomma è lo sport nella sua massima essenza, quando diventa veramente questione di battiti, di un canestro, di un centimetro, di un secondo, e quindi è. Andiamo a Sassari, tutti a Sassari. Più che altro volevo vedere qualche partita, non me la vedrò, però vabbè. Forse andiamo a Reggio Emilia, andiamo a vedere. Andiamo a Sassari, andiamo a Reggio Emilia. Sassari, trasferiamo. Ah sì, ciao Pier. Ciao ragazzi. Ci sentiamo domenica. Domenica 17. Posso dirti l'ultima cosa in 10 secondi? Tevez ha detto che dell'ultimatum della Juve non gliene può importare di meno. Lui adesso pensa soltanto alla Coppa America. Ah però. E all'Argentina. Ah però. Così ha detto Carlo. Coming soon. Ah però. Ciao ragazzi, grazie a Giovanni Capuano, grazie a Claudia Schiattone, Gianmarco Peronato, a tutti quelli che hanno lavorato a questo programma, a tutti voi che ci avete sentito. Basta così? Domenica ore 17, tutti convocati, ciao.